Festeggiamo la festa di San Matteo Apostolo ed Evangelista. Preghiamo per il Papa che oggi ricorda il giorno della sua vocazione. Preghiamo per tutti quelli che si chiamano Matteo, per Don Matteo Fambri in particolare, vicario dell'Opera in Italia, che celebra oggi il suo onomastico. Ecco, nella messa, ancora una volta, come sempre, tutti gli anni, nella festa di San Matteo, leggiamo il Vangelo della chiamata di Matteo secondo Matteo, e anche San Marco e anche Luca raccontano la stessa storia, con parole abbastanza simili, e la Chiesa preferisce leggere proprio il Vangelo di Matteo, pensando che sia stato proprio lui a raccontarsi, no, in queste parole. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori." Ecco, trovato un'omelia del Papa 2 anni fa, nella festa di San Matteo. Era durante il suo viaggio a Cuba e, come lui è capace di fare, come ci sta insegnando a fare, entra in questo brano del Vangelo, quindi io la utilizzerò abbondantemente in questa meditazione, e sì, proprio soffermandosi su alcune parole, vedendo la scena, no? Come cerchiamo di fare anche noi. Ecco, allora il Papa si sofferma, e in questo ci aiuta, sul primo verbo che definisce la prima azione di Gesù. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo. Il Papa si sofferma su questo sguardo di Gesù. E Gesù lo guardò, dice che forza di amore ha avuto lo sguardo di Gesù per smuovere Matteo come ha fatto. Che forza devono aver avuto quegli occhi per farlo alzare? Sappiamo che Matteo era un pubblicano, cioè riscuoteva le tasse dagli ebrei per darle ai romani. I pubblicani erano malvisti, considerati anche peccatori, e per questo vivevano isolati e disprezzati dagli altri. Con loro non si poteva mangiare, né parlare e né pregare. Per il popolo erano dei traditori che prendevano dalla loro gente per dare ad altri. I pubblicani appartenevano a questa categoria sociale. Quindi il Papa si sofferma sullo sguardo di Gesù che ha questa potenza di chiamare Matteo. Io vedo ancora prima che il Vangelo dice: mentre andava via, Gesù vide un uomo. Mi piace vedere in questo accenno il fatto che Gesù sta andando via, ha un altro programma, ha altro da fare. Si sofferma perché ha guardato Matteo, si interrompe, cambia programma, possiamo dire così, per fare una cosa bella, grande, importante, che cambia la vita di Matteo, ma cambia anche la giornata di Gesù. Mentre andava via, invece poi vediamo che Gesù si ferma a pranzo da Matteo, a casa di Matteo. Ha cambiato il programma della sua giornata perché perché ha visto questo Matteo, Levi, lo chiamavano in altri Vangeli, si dice questo, e Gesù si fermò, dice il Papa, non passò oltre frettolosamente, lo guardò senza fretta, lo guardò in pace, lo guardò con occhi di misericordia, lo guardò come nessuno lo aveva guardato prima. E quello sguardo aprì il suo cuore, lo rese libero, lo guarì, gli diede una speranza, una nuova vita, come a Zaccheo, a Bartimeo, a Maria Maddalena, a Pietro e anche a ciascuno di noi. E il Papa mette in evidenza, cioè guarda lo sguardo di Gesù, contempla la scena e vede Gesù che guarda. Poi dice, anche se noi non osiamo alzare gli occhi al Signore, Lui sempre ci guarda per primo. È molto interessante questa notazione, è dallo sguardo di Gesù che nasce la vocazione di Matteo. Gesù guarda ciascuno di noi per primo, dal suo sguardo è nata la vocazione cristiana e anche altre vocazioni successive che abbiamo ricevuto nella Chiesa, ciascuno di noi, dallo sguardo di Gesù. Gesù mi ha guardato. E il Papa, senza parlare di sé, però si capisce per chi conosce la sua storia, dice che sta pensando anche alla sua personale vocazione. È la nostra storia personale, diceva quel giorno a Cuba. 2 anni fa, come tanti altri, ognuno di noi può dire anch'io sono un peccatore su cui Gesù ha posto il suo sguardo. Questo è un modo di dire che piace al Papa per definirsi. Sono un peccatore che Gesù ha guardato. A me viene in mente che è tipico delle persone che conoscono Dio, che hanno una grande esperienza di Dio. Mettere insieme queste due realtà. Da un lato siamo peccatori e dall'altro Gesù ci guarda. San José Maria diceva: sono un peccatore che ama Gesù Cristo. Però vedete che la sensibilità che cresce, soprattutto negli ultimi decenni della Chiesa, di mettere sempre più in evidenza la grazia di Dio, l'azione di Dio, la priorità di Dio, no? E come diceva quella volta il cardinal Ratzinger, parlando di Dio, bisogna sempre mettere in evidenza la sua azione prima della nostra. E allora il Papa dice: sono un peccatore che Gesù ha guardato. È più importante l'azione di Gesù? Cioè, potremmo dire che Gesù ama, che Gesù ha amato. Poi dopo è venuta la nostra risposta. Vi invito oggi, diceva il Papa, e l'invito vale ancora, anche se è tardi, siamo alla fine della giornata, a casa o in chiesa, quando siete tranquilli, soli, a fare un momento di silenzio per ricordare con gratitudine e gioia quella circostanza, quel momento in cui lo sguardo misericordioso di Dio si è posato sulla nostra vita. Possiamo farlo in questo momento, no? Durante la nostra orazione, pensare ciascuno di noi a quei momenti, a quel giorno, a quella circostanza, forse ce ne verranno in mente tante, no? Perché è un cammino il nostro, c'è stato un momento, un altro, però forse c'è stato un giorno in cui abbiamo capito meglio, abbiamo capito di più che Gesù ci stava guardando e ci stava dicendo, come ha detto a Matteo quel giorno, seguimi. Quel momento in cui lo sguardo misericordioso di Dio si è posato sulla nostra vita, e probabilmente il Papa penserà a quel 21 settembre, quando lui era giovane, diciottenne, e entrò in quella chiesa e si sentì spinto ad entrare in quel confessionale, e durante quella confessione, il Signore lo ha chiamato, gli ha fatto capire che desiderava per lui la vocazione al sacerdozio, cioè il ministero sacerdotale, lo chiamava a questa vita. Poi ci ha messo 4 anni prima di entrare a cominciare gli studi, no, da seminarista. Però Il suo amore ci precede, il suo sguardo anticipa le nostre necessità. Egli sa vedere oltre le apparenze, al di là del peccato, al di là del fallimento o dell'indegnità. Sa vedere oltre la categoria sociale a cui apparteniamo. Egli va al di là di tutto ciò. Egli vede quella dignità di figli che tutti abbiamo, a volte sporcata dal peccato, ma sempre presente nel profondo della nostra anima. È la nostra dignità di figli. Egli è venuto proprio a cercare tutti coloro che si sentono indegni di Dio, indegni degli altri. Lasciamoci guardare da Gesù, lasciamo che il suo sguardo percorra le nostre strade, lasciamo che il suo sguardo ci riporti la gioia, la speranza, la gioia della vita. Quindi è bella questa indicazione, questo suggerimento per la nostra preghiera. Lasciamo che Gesù ci guardi, sentiamoci guardati da Gesù e anche potremmo scoprire com'è questo sguardo, no? È uno sguardo che ci dice che ci vuole bene, che ci comprende totalmente, che mette dentro nel suo cuore, nella sua conoscenza, nella sua anima, tutta la nostra vita, tutta la nostra vita, anche gli errori, anche quello che ci è sembrato un fallimento, anche le debolezze, anche le sofferenze subite da altri, le ingiustizie che a volte ci portano un po' a ribellarci, com'è possibile che mi sia successo questo? Dentro a quello sguardo c'è tutto, c'è il significato della nostra vita, c'è già negli occhi di Gesù quel nome che lui ci darà alla fine della vita. E nella, come dice l'Apocalisse, in quella piccola pietra bianca, no? Su cui ci sarà scritto il nostro vero nome, il senso profondo di tutta la nostra esistenza, c'è già nello sguardo di Gesù che ci chiama. Dopo averlo guardato con misericordia, il Signore disse a Matteo: seguimi. E Matteo si alzò e lo seguì. Dopo lo sguardo, la parola. Dopo l'amore, la missione. Ecco, anche questo è molto bello. Forse in questi due gesti di Gesù, in queste due azioni, lo vide e poi gli disse: seguimi. No? In questi due atteggiamenti di Gesù, in queste due sue azioni, forse è sintetizzata una buona parte della storia della nostra vita. Nel senso che a volte anche la scoperta della vocazione avviene attraverso un percorso. Prima vedo Gesù che mi guarda, sento Gesù che mi guarda e incrocio lo sguardo di Gesù e poi dopo entro in relazione con lui di dialogo e in questa relazione di dialogo, quando Gesù lo ritiene opportuno, quando pensa che sia il momento adatto, mi dice o mi ha detto: seguimi. Matteo non è più lo stesso, è cambiato interiormente. L'incontro con Gesù, con il suo amore misericordioso, lo ha trasformato. E in quel momento si lasciò alle spalle il banco delle imposte, il denaro, la sua esclusione, il suo essere escluso dagli altri, no? Dalla società. Noi possiamo pensare che in ogni chiamata, in ogni vocazione a seguire Gesù più da vicino, è inglobato un lasciare qualcosa. A volte un lasciare è tutto, come dice il Vangelo, anche se proprio tutto, tutto, insomma, non è a volte possibile, no? Non possiamo lasciare noi stessi. Anzi, in qualche modo, noi nel seguire la vocazione ci ritroviamo. Non, chi perde la sua vita la trova, dice Gesù in un altro passo del Vangelo. Ecco, e però in molti casi la vocazione include invece il rimanere nel proprio posto, nel proprio lavoro, nella propria città, nella propria famiglia, nel nel proprio stato di vita. E questo lo si vede anche nella vita di molti apostoli. E probabilmente Matteo non poteva tornare a fare l'esattore proprio per la dimensione di peccatore che in quel momento veniva applicata come un'etichetta a quel tipo di lavoro. Ma altri, i pescatori tornano a pescare, per esempio. E poi in tanti casi nel Vangelo Gesù chiama qualcuno a seguirlo rimanendo al suo posto. E pensate a quel personaggio nella Decapoli a cui scaccia tutta una legione di demoni che poi lo vuole seguire proprio materialmente, no? Ti seguirò dovunque tu vada. Invece Gesù gli dice torna nella tua casa, nel tuo paese, nella tua città e di lì quello che io ti ho fatto e addirittura quel personaggio non solo nella sua città, ma in tutta la zona, no? In tutte le 10 città. Parla di Gesù. E poi il Papa fa un'altra annotazione molto, molto bella per me. Prima aspettava seduto per riscuotere Matteo, no? Per prendere dagli altri. Ora con Gesù deve alzarsi per dare, per offrirsi agli altri. Gesù lo ha guardato e Matteo ha trovato la gioia nel servizio. Per Matteo e per tutti coloro che hanno percepito lo sguardo di Gesù, i concittadini non sono quelli di cui si approfitta, si usa, si abusa. Lo sguardo di Gesù genera un'attività missionaria, di servizio, di dedizione. I suoi concittadini sono quelli che lui serve. Il suo amore guarisce le nostre miopie, ci stimola a guardare oltre, a non fermarci alle apparenze o al politicamente corretto. Quindi Matteo diventa una persona che non aspetta ma va. E in effetti, anche se il Vangelo non narra, se non in modo sinteticissimo, quello che è successo dopo, Matteo prende l'iniziativa e invita nella sua casa molti pubblicani, molti peccatori, perché c'è Gesù, li invita a venire con loro. E di fatto lì si nasce anche la critica, come spesso succede, forse dobbiamo capire che la critica è normale che accada quando uno segue Gesù e fa quello che Gesù gli dice e si sente così libero interiormente e così felice di essere stato amato, scelto, prima guardato, chiamato a seguirlo, chiamato a essere suo, proprio uno dei suoi discepoli, uno che Gesù vuole che lo segua nelle città e nei villaggi, ad ascoltare la sua parola, a imparare da lui e ad aiutarlo in questa opera l'opera del Messia, l'opera della redenzione, la chiamiamo noi adesso, l'opera della rivelazione che si completa, Dio che è venuto a trovarci per dirci chi è Lui davvero, per completare la rivelazione, per spiegarci che è amore, no? E che per amore nostro avrebbe accettato di soffrire la morte in croce per poi risorgere e vincere anche quest'ultima nemica. Quindi quando si segue Gesù così si sente liberi e quindi c'è la spontaneità apostolica, potremmo chiamarla così. L'apostolo Matteo è spontaneo fin dall'inizio, invita tutti i suoi amici a pranzare con lui, una cosa molto normale, una cosa che forse faceva tante altre volte, la festa in casa sua. E venite che c'è una festa oggi, perché è venuto Gesù. Perché poi così vi saluto e poi lo seguo, eh? Poi ci ritroveremo, probabilmente, no? Sarà tornato qualche volta a casa sua e avrà rivisto anche quei suoi amici, gli avrà raccontato quello che Gesù faceva e diceva. Ma nasce la critica. I farisei dicevano ai suoi discepoli, vedendo ciò, cioè vedendo molti pubblicani, cioè molti dei suoi colleghi, possiamo dire con parole nostre, Gesù, cioè scusate, Matteo, prendeva presenta Gesù ai suoi colleghi. E questo è quello che Gesù chiede a tutti i cristiani, di essere testimoni nel proprio ambiente, con i propri colleghi. E solo che questi pubblicani erano ritenuti, come Matteo, appunto, peccatori, ecco, pubblicani e peccatori, no? Erano a tavola con Gesù. I farisei, che si sentono invece i puri, no, quelli che seguono la legge di Dio, quelli bravi, no? Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Chiedono ai discepoli. E Gesù, che bravo che sei, Gesù, che forte che sei, che coraggio che hai. È il coraggio della verità. E poi vieni anche incontro a questi poveri discepoli che forse non sapevano bene come rispondere. Invece rispondi tu. Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire, e questa è una parola che loro conoscevano bene, della Sacra Scrittura: misericordia io voglio, non sacrifici. È Dio che vuole questo, è Dio che parla. Non voglio sacrifici, ma misericordia, atteggiamento di compassione, di perdono, di amore per i miseri, no? Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Queste parole, Gesù, che tu dici e che noi conosciamo bene, perché perlomeno chi frequenta da tanti anni il Vangelo, o che va a messa spesso, che insomma, e che ogni anno leggiamo nella festa di San Matteo, dobbiamo però evitare come dire, sì, l'atteggiamento di chi già sa, ma lasciarci provocare, lasciarci cambiare, lasciarci convertire da queste parole. Tu sei venuto a chiamare i peccatori e non i giusti. Per questo, se, queste sono parole molto liberanti, molto consolanti. Tutte le volte che io mi sento peccatore, e va bene che io mi sento peccatore, un peccatore che Gesù ha guardato, come dice il Papa, un peccatore che ti ama, come diceva San José María. E tutte le volte che io mi sento peccatore, mi devo sentire anche chiamato. Allora io rientro nel novero, rientro nella selezione di coloro che possono essere chiamati da Gesù, perché sono un peccatore. E vediamo cosa diceva il Papa, sempre continuando nella sua omelia. Dice: Gesù va avanti, ci precede, apre la strada, ci invita a seguirlo, e ci invita ad andare lentamente, superando i nostri pregiudizi, le nostre resistenze al cambiamento degli altri e anche di noi stessi. Ci sfida giorno per giorno con una domanda: credi? Credi che sia possibile che un esattore si trasformi in un servitore? Pensi che sia possibile che un traditore diventi un amico? Pensi che sia possibile che il figlio di falegname sia il figlio di Dio? Il suo sguardo trasforma il nostro sguardo. Il suo cuore trasforma il nostro cuore. Dio è Padre che vuole la salvezza di tutti i suoi figli. Lasciamoci guardare dal Signore nella preghiera, nell'Eucaristia, nella confessione, nei nostri fratelli, soprattutto quelli che si sentono abbandonati, più soli, e impariamo a guardare come Lui guarda noi. Qui mi soffermo un attimo. Finché ascoltiamo il Papa che dice: lasciamoci guardare dal Signore nella preghiera, nell'Eucaristia, nella confessione, sono per me momenti che riconosco come luoghi dello sguardo di Gesù, anche se mi posso dimenticare che nella preghiera sei tu, Gesù, che mi guardi anche adesso, nell'Eucaristia che ho celebrato questa mattina, tu mi guardi, mi hai guardato nella confessione, no? Che ho celebrato ieri, tu mi hai guardato, mi dimentico, mi aiuta molto pensare che tu mi guardi in questi tre momenti, ma pensare che tu mi guardi nei nostri fratelli, cioè un tuo fratello, un mio fratello che mi guarda, soprattutto, dice il Papa, i più soli, i più abbandonati, cioè sei tu che mi stai guardando? E questo per me è una novità, posso dire così, intellettualmente no, teoricamente no, ma Nella vita sì. Quando mai ho pensato tu mi stai guardando? Forse l'ho pensato qualche volta. Quando mio fratello solo, abbandonato, mi guarda, sei tu Gesù che mi guardi e forse mi inviti a darti una mano. E poi dopo, al contrario, possiamo anche impariamo, ecco, guardare lui, guardare come lui guarda noi. Cioè, ecco, allo stesso tempo io sono Cristo che cerco di guardare gli altri come lui mi guarda. E il Papa dice: condividiamo la sua tenerezza, la sua misericordia con i malati, i carcerati, gli anziani, le famiglie in difficoltà. Ancora una volta siamo chiamati a imparare da Gesù, che vede sempre quello che c'è di più autentico in ogni persona, che è appunto l'immagine del Padre. Io mi posso proporre oggi dell'orazione, Gesù, col tuo aiuto, con la tua grazia, se no non sono capace di fare nulla. Con lo sguardo di Maria, di guardare in ogni persona che incontro, in modo particolare i più in difficoltà, e l'immagine del Padre, forse me lo posso proporre con il tuo aiuto. Io penso anche, mi veniva in mente quando pensavo alla festa di San Matteo e a questa meditazione, che Matteo è appunto è apostolo e quindi da pubblicano. È considerato peccatore, diventa apostolo di Cristo, è suo discepolo, quello che lo segue in tutti quegli anni, e poi diventa però una delle colonne della Chiesa, un apostolo, tutti i vescovi sono considerati successori degli apostoli, no? Infatti anche nella messa, quando si dice la messa per un vescovo vivente, si utilizza il prefazio degli apostoli. Lo stesso che si utilizza per esempio oggi per festeggiare San Matteo, perché il vescovo è successore degli apostoli. Allora, e lui è diventato Matteo un punto di riferimento, fondatore di chiese. E mi veniva in mente, a questo proposito, quello che mi hanno raccontato proprio Don Matteo, che oggi festeggia il suo onomastico. Mi raccontava ieri al ritorno da una settimana passata con il prelato dell'opera, che non è vescovo, ma ha tutte le potestà episcopali, no? Per guidare questa parte della Chiesa che è l'Opus Dei, e erano tutti colpiti, lui e gli altri che stavano con lui, dalla capacità di ascolto del prelato, del padre, no? Di ascoltato persone di 16 nazioni diverse, con esperienze diverse, con insomma età diverse, e che a cui chiedeva, ecco, su vari temi della pastorale dell'Opus Dei, il loro parere, incitandoli a dire: dite veramente quello che pensate. Glielo ha ripetuto tante volte, che poi appunto è quella che fu la sua esperienza personale quando diventò consultore della congregazione. L'ho già raccontato, no? Che gli diedero questo consiglio, no? Dica sempre quello che pensa. E è molto bello capire, erano molto colpiti da questo suo ascolto attento, a lungo, tutta la giornata, tutte le riunioni, per poi avere elementi per il governo di questa parte della Chiesa. E quando loro parlavano di questo, mi veniva in mente che questa è una caratteristica tipica del vescovo. Come insegna la Lumen Gentium, ascoltare i suoi fedeli, i suoi sacerdoti, no? E mi è venuto in mente anche un testo molto bello che vi segnalo, anche se un po' genericamente, che è il discorso che il Papa Francesco ha fatto ai nuovi vescovi proprio il 14 di settembre, cioè quindi qualche giorno fa. E a questi nuovi vescovi, che quelli nominati lungo l'anno, fanno un incontro a Roma di alcuni giorni di formazione, e il Papa ha fatto un discorso bellissimo in cui ha parlato del compito del discernimento che nasce nel cuore e nella mente del vescovo attraverso la sua preghiera, che è un dono dello Spirito alla Chiesa, al quale si risponde con l'ascolto, che è grazia dello Spirito al santo popolo fedele di Dio, che lo costituisce popolo profetico dotato del senso della fede e di quell'istinto spirituale che lo rende capace di sentire come ecclesia. Quindi, dice il vescovo, è chiamato a vivere il proprio discernimento di pastore come membro del popolo di Dio, cioè in una dinamica sempre ecclesiale, no? A servizio della comunione. E il discernimento del vescovo è sempre un'azione comunitaria, che non prescinde dalla ricchezza del parere dei suoi presbiteri e diaconi, del popolo di Dio e di tutti coloro che possono offrirgli un contributo utile anche attraverso gli apporti concreti e non meramente formali. Ebbene, io so che questo il prelato l'ha chiesto proprio, dateci idee, dateci contributi perché possiamo da qui aiutarvi di più. Io di questo ringrazio veramente il Signore, di questo momento di comunione che c'è stato e che ci sarà anche adesso una settimana successiva con donne del Busei, sempre di questi 16 paesi, di tutti i 5 continenti, e prego per questo, perché lo Spirito Santo veramente li illumini, perché poi il Padre ci possa guidare in questa azione, e questa intenzione la affido a San Matteo nel giorno di oggi. San Matteo Apostolo, ecco l'Apostolo che è proprio il capostipite, no? di tutti gli apostoli, i 12 apostoli sono capostipite di tutti i vescovi, e prego anche per tutti i vescovi nella Chiesa perché possano svolgere, uniti al Papa, questo ministero così importante, no? Perché anche noi oggi possiamo incontrare Gesù come Matteo l'ha incontrato, sentirci guardati da lui come lui si è sentito guardato, sentirci chiamati da lui come il Signore lo ha chiamato, e seguirlo e fare festa con gli amici.